Chiediamo aiuto allo Spirito Santo perché ci illumini in questa meditazione. Io volevo proprio soffermarmi un po' sullo Spirito Santo, che in effetti è quella persona della Trinità che non si vede. Il Figlio si è manifestato e lui ci ha fatto conoscere il Padre, e lo Spirito Santo è proprio l'amore tra il Padre e il Figlio, no? Quindi la sua caratteristica è quella proprio di spirare, no? E d'altra parte, cioè di passare come l'amore, no? L'amore c'è, ma non si vede se non attraverso le sue manifestazioni, no? E forse per questo a volte possiamo dire che nella nostra vita spirituale sia un po' trascurato. Io parlo per me, evidentemente. E forse poco conosciuto, no? San José Maria intitola un'omelia Il grande sconosciuto. Era un modo di dire, ecco, che lui ha sentito anche da altri, però è significativo, no? Allora, magari invece voi lo conoscete, avete devozione, insomma, lo invocate. Ho pensato che, siccome si dice che nel libro degli Atti degli Apostoli sia come il Vangelo dello Spirito Santo, no? Qualcuno dice così. Allora, vedere un po', con una ricerca rapida, no? Alcuni testi degli Atti degli Apostoli che ci possono parlare dello Spirito Santo, fra l'altro anche perché noi desideriamo appunto avere il modello dei primi cristiani nel vivere la nostra vita cristiana ed essere apostoli come loro erano a partire dal nostro battesimo, no? Quindi abbiamo questo desiderio. Ecco, io ho fatto una rapida ricerca pensando a voi, a questa meditazione, e ho pensato questo, no? Che negli Atti degli Apostoli scopriamo che lo Spirito Santo è colui attraverso il quale diciamo, Gesù stesso ha scelto i suoi apostoli, no? Vengono scelte alcune persone per essere destinate a una importante missione della Chiesa, una Chiesa nascente. Poi lo Spirito Santo dona le lingue, no? Queste lingue con cui parlano, si fanno capire anche da persone con lingue molto diverse, e indubbiamente indica agli apostoli il da farsi, no? Perché suggerisce dove andare, che cosa fare. Poi aiuta anche. Per esempio, li aiuta quando sono accusati, no? E allora lo Spirito Santo gli dà parole con cui difendersi, con cui rispondere agli accusatori, no? E poi anche gli aiuta a cambiare mentalità, a scardinare alcuni pensieri radicati che però sono di ostacolo all'azione di Dio in loro, all'evangelizzazione. Senz'altro è frutto del battesimo e di altri sacramenti, però anche lo Spirito Santo arriva con molta libertà anche prima che siano dati i sacramenti, no? Bene, poi dopo, per esempio, un altro punto, poi dopo ci ritorniamo su con calma, no? Per darvi alcuni elementi così, di sintesi, e poi, per esempio, si vede come lo Spirito Santo aiuta nel governo della Chiesa, no? Quando si riunisce il Concilio di Gerusalemme si capisce che lo Spirito Santo è protagonista, tanto che loro alla fine dicono: è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, e gli dicono alcune cose, no? Allora proviamo a tornare a rivedere queste cose, se ci abbiamo tempo, con un po' di calma, ma per conoscere lo Spirito Santo e anche per per metterci così in contatto con lui e per lasciarlo entrare nella nostra vita sempre di più. È ovvio che c'è, perché l'abbiamo ricevuto con il battesimo, l'abbiamo ricevuto con la cresima, l'abbiamo ricevuto, lo riceviamo sempre in ogni sacramento che riceviamo, no? Nel sacramento del matrimonio, nel sacramento dell'Eucaristia, io nel sacramento dell'ordine sacro, nell'unzione dei malati e così via, no? Nella sacramento della penitenza, della confessione. Quindi lo Spirito Santo è protagonista, ecco, di questi sacramenti. Allora, proprio all'inizio San Luca dice, si rivolge a Teofilo, no? E gli dice che, ecco, nel primo racconto ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Vedete che comincia subito San Luca, che è l'autore, secondo la tradizione, degli Atti degli Apostoli, mettere in evidenza, ecco, lo Spirito Santo appare subito nella prima frase insieme con Gesù, no? E con Dio Padre, Teofilo è l'amico di Dio, no? In greco. Quindi c'è già tutta la Trinità nella prima frase. E San Luca sintetizza anche quello che è successo negli ultimi giorni di Gesù e le ultime cose che ha detto a loro mentre si trovava a tavola con essi. Ordina loro, è fantastico vedere come Gesù le cose più importanti le fa a tavola, quindi questo tanto per riconciliarci anche noi con questo momento bello della vita di famiglia, cioè Gesù le cose più importanti, i miracoli, cioè, a partire dall'Eucaristia, ma la conversione di Zaccheo, la festa per Matteo, ma comunque a tavola, no? La lavanda dei piedi, quella donna che gli lava i piedi con le sue lacrime, insomma, tantissime cose accadono a tavola. Bene, detto questo, quindi era a tavola con loro, gli ordina di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me: Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quindi avevano bisogno di ricevere ecco, poi dice: riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi. E di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria, fino ai confini della terra. Queste cose Gesù le dice a proposito di una domanda, la mette in collettiva, no? Gli apostoli che dicono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirà il regno per Israele? Da cui si capisce che loro non avevano capito. È già morto Gesù, è già risorto, ma non hanno capito, nonostante tutte le parabole di Gesù, di che regno si tratta. Lo Spirito Santo glielo spiegherà, no? Gli farà ricordare tutte le cose dette da Gesù, le capiranno allora dopo verrà fuori il Vangelo, no? Il Vangelo scritto e la predicazione. Allora Gesù non entra, appunto, non entra in polemica, non cerca di spiegargli le cose che non le possono capire, dice: aspettate lo Spirito Santo e poi ne riparliamo, no? Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Questo però serve anche a noi tutti, perché a volte noi ci chiediamo: ah, cioè ci preoccupiamo della situazione del mondo, ci preoccupiamo della situazione della Chiesa. Penso che sia successo sempre in tutte le generazioni di cristiani. E Gesù ci dice: allora chiediamo se ci sarà un momento in cui le cose si risolvono. E il Signore ci dice: non è dato a voi conoscere tempi, momenti che il Padre ha riservato al suo potere. Quello che dovete fare tutti è essere testimoni di Gesù Cristo, quindi testimoniarlo. Ma capiranno, non capiranno, ci seguiranno, crederanno, non crederanno. Questo Gesù non lo dice, stavo per dire, non ci deve interessare, è sbagliato perché ci interessa, però non dobbiamo farlo solo se. No? Se gli altri capiscono, allora io parlo, no? Ma guardate che la tentazione io ce l'ho continuamente, cioè predico se poi la gente è contenta, no? Se non è contenta, faccio l'offeso e dico: non ci gioco più, no, non vi parlo più. No, la tentazione è continua da questo punto di vista e quindi penso forse capita anche a voi, non lo so. Però per sé Gesù non è che ci dice fate apostolato che vedrete che bei risultati, no? No, non è che dice così. Mi sarete testimoni, no? Cioè predicate a tutte le genti, battezzandole, ecco. Vabbè. Poi senz'altro dice anche andate a seminare e su quattro parti del seme che voi gettate, tre vanno perdute, una, due, tre, rimane solo la quarta, dove, che però dà un po' di frutto, no? Dove 30, dove 100, dove 60, dove 100, quindi qualcosina, secondo Gesù, accade, no? Qualcosina, un po' di frutto c'è, frutto soprannaturale, che è opera dello Spirito Santo, non nostra, eh? È opera, è così che quando il contadino semina, è la terra che è l'acqua, insomma, tutto il sole, insomma, tutti gli agenti della realtà creata da Dio. Poi c'è anche il gesto del seminatore che prende sta manciata di sé, che la lancia, quindi si impegna anche un po', serve anche il seminatore, no? Però per sé, una volta che il seme cade per terra, dice Gesù, boh, cresce, ma neanche il contadino sa perché. Come e deve solo aspettare, no? E allora di fatto lo Spirito Santo poi quel giorno, cioè subito dopo San Luca racconta della Pentecoste, lo Spirito Santo che arriva, ecco il vento impetuoso, il fragore dal cielo, le lingue di fuoco che si dividono, si posano su ciascuno, per questo anche significa che arriva tutta la Chiesa lo Spirito Santo, ma anche in modo personale. Cioè, su ciascuna di voi, in modo personale, lo Spirito Santo dà un dono personale a ciascuno di voi, a ciascuna di voi, a ciascuno di noi. E non è uguale il dono che dà a Pietro, il dono che dà a Giovanni, quello che dà ad Andrea, anche se collettivamente arriva a tutti. Quindi cominciarono a parlare in altre lingue, in modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Non so se sapete che il fondatore dell'Opus Dei, San José Maria, scriveva, e su questo punto lui aveva applicava, cioè parlava del dono delle lingue, non tanto in questo modo straordinario, soprannaturale, cioè soprannaturale, forse soprannaturale anche il dono delle lingue che chiedeva per noi, però chiedeva questa capacità allo Spirito Santo, gliela chiediamo anche adesso, che ciascuno di noi sappia parlare agli interlocutori. Facendosi capire, cioè non facendosi capire da un punto di vista umano, anche quello si capisce, ma dal punto di vista divino, cioè umano e divino, quindi saper usare il linguaggio che viene capito, toccare il cuore ecco, con le parole giuste, chiedendole allo Spirito Santo e poi impegnandosi evidentemente per avere anche lo stesso linguaggio, no? Dei nostri interlocutori, in questo conoscere la loro cultura, qual è no? La cosa che a loro piace. Io parlavo con un sacerdote amico a Palermo qualche giorno fa, che insegna in un liceo, e mi diceva, e lo conosco da tempo, lui ha questa capacità, questa passione, che lui interloquisce con il liceale, la liceale, 14enne, 15enne, e una delle prime cose che gli chiede è quali sono le canzoni che gli piacciono, no? E Don Giuseppe Verina, alcuni di voi lo conoscono. E allora poi a partire da quella canzone lui l'ascolta, legge il testo e riesce a trovare un linguaggio comune trova anche, perché poi un po' di sapienza penso che ci sia, o comunque in tutti questi testi dice qualcosa che colpisce il cuore dei contemporanei, per esempio di questi ragazzi, poi in un'altra generazione bastano pochi anni di differenza, sono altre canzoni e così, no? E allora quello è un modo, per esempio, un modo di parlare il linguaggio degli interlocutori, non dico che tutti dobbiamo fare così. Io per esempio non lo so fare, o comunque potrei, non so, non l'ho mai fatto, e o l'ho fatto poche volte, però si tratta di fare in modo che di conoscere il linguaggio di coloro, dei nostri contemporanei, ecco, come toccare il loro cuore, no? Allora, probabilmente io penso che ci sono tante persone che hanno questo dono. Io penso che il Papa Francesco abbia questo dono, poi ad alcuni non lo capisco, alcuni anche lo avversano, però moltissimi altri si avvicinano a Dio attraverso il suo esempio, le sue parole, i suoi gesti, no? Chiediamo anche per noi, per tutti quanti nella Chiesa, il dono dello Spirito Santo, che ci doni il dono delle lingue, la capacità di parlare di Cristo, di parlare di Dio in un modo che possa essere compreso, ma a volte anche solo parlare di Dio, cioè dire una parola, no, che può colpire il cuore delle persone a cui ci rivolgiamo, no? Ancora andando avanti, un po' nella lettura degli Atti degli Apostoli, si vede che a un certo punto vedono che ad Antiochia c'è il messaggio del Vangelo si sta diffondendo, no? E un grande numero di persone crede e si converte al Signore. Allora, a Gerusalemme lo sentono, sentono dire queste notizie, allora mandano Barnaba ad Antiochia. Non so se sapete che Barnaba, secondo una certa tradizione, bella, non sappiamo quanto storicamente fondata, però a Milano si considera che Barnaba è quello che ha portato il cristianesimo a Milano, no? Ecco, c'è un luogo dove in una chiesa del centro, no? Santa Maria del Paradiso, dove c'è un foro nel terreno e la tradizione dice che lì ha impiantato la croce San Barnaba. Ecco, comunque. Questo Barnaba apostolo, bene, apostolo non è nei 12, ma si è aggiunto dopo e senz'altro negli Atti degli Apostoli è molto, molto attivo, molto vicino a San Paolo, poi a un certo punto litiga con San Paolo, quindi può essere patrono dei litigi, no? O forse, cioè, in realtà era più San Paolo che ha litigato con lui, perché, e pensate un po', ha litigato perché lui voleva portare nel loro viaggio apostolico Marco, il giovane Marco, e San Paolo non lo voleva più perché nel viaggio precedente li aveva abbandonati e se n'era tornato a casa. E allora a quel punto decidono di separarsi. È uno dei litigi più belli della storia, perché a proposito del litigio, invece di fare un viaggio apostolico, ne hanno fatti due. Si è moltiplicato l'apostolato grazie al litigio, no? Per cui no, non è che dobbiamo sempre magnificare l'unità dal punto di vista dell'armonia, l'andare d'accordo. Un bel disaccordo che provoca una diffusione maggiore del bene. Allora, Barnaba quindi va ad Antiochia e lui dice il libro degli Atti degli Apostoli: quando questi giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò ed esortava tutti a restare con cuore risoluto, fedeli al Signore, da uomo virtuoso qual era e pieno di Spirito Santo e di fede. Poi a un certo punto anche accade un'altra cosa che vi segnalo, anche se qui la meditazione va più per così per brevi cenni, ma così facciamo una specie di tavolozza di colori, no? Della ricchezza infinita che ha lo Spirito Santo, perlomeno. Diciamo alcune cose, non ci fermiamo solo su una. Allora, a un certo punto, sempre lì ad Antiochia, scesero alcuni profeti da Gerusalemme ad Antiochia. Si vede che è un posto dove andava così bene l'apostolato e l'evangelizzazione, la diffusione del Vangelo, che da Gerusalemme, che forse era un po' più difficile, non so, questi vanno profeti. E uno di loro, di nome Agabo, si alzò in piedi e annunciò per impulso dello Spirito che sarebbe scoppiata una grande carestia su tutta la terra, ciò che di fatto avvenne sotto l'impero di Claudio. Allora i discepoli stabilirono di mandare un soccorso ai fratelli abitanti nella Giudea, ciascuno secondo quello che possedeva. Questo fecero indirizzando agli anziani per mezzo di Barnaba e Saulo. Quindi vedete, cioè, è una mescolanza di profezia, cioè arriva dal Signore, dallo Spirito Santo, l'idea che cioè l'anticipo che ci sarebbe stata una carestia, e loro quindi decidono diciamo, di distribuire i beni per aiutare quelli che avrebbero avuto questo problema. Allora, voi, ecco, mi viene in mente, ma solo per poi accennarvelo per chi desidera approfondire, che c'è una bella intervista a Cardinal Ratzinger, quindi è antica, di qualche, non so, 20 anni fa, che però si può trovare su internet. Se voi dite Ratzinger profezia cristiana, penso che lo troviate col motore di ricerca, che appunto spiega che non è, la profezia non è solo dei profeti dell'Antico Testamento, ma si può parlare anche di profezia cristiana, cioè anche nella Chiesa esiste, e qui esiste questa realtà. Certo, poi bisogna, cioè non è che possiamo, insomma, poi ci può essere una certa una prudenza, la Chiesa deve saper valutare, no? Se una realtà è profetica o no, ma forse poi lo si vede anche dopo, no? Lo si vede più avanti. E poi possiamo chiedere appunto allo Spirito Santo che tutti quanti, ecco, sappiamo anche cogliere, no? Possiamo anche dire così, i grandi santi, ma anche quelli giovani, quelli piccoli, cioè, scusate, quelli meno noti, cioè, hanno tutti il dono di profezia. In fondo tutti i cristiani, no? Hanno il dono di profezia, che è la possibilità di parlare a nome di Dio, no? In fondo ciascuno di noi, quando esercita l'apostolato cristiano a partire dal suo battesimo, ha il dono di profezia, no? Non significa prevedere cose future. Qualcuno ha qualche dono che sa andare più avanti, che sa cogliere più in profondità le cose, che sa indicare la strada. I grandi santi sono stati questo nella Chiesa. E infatti anche a volte sono stati un po' avversati, forse non sono stati tanto capiti, no? Pensate, se non si può dire di San Francesco d'Assisi che non sia stato un profeta. Cioè, lui non è che dice cose diverse da quelle del Vangelo, ma mette in piedi un modo di vivere il Vangelo che, se viene seguito, appunto, che poi è stato di grandissima bellezza per la Chiesa, no? Suona un telefono? Ecco, sì, no, quindi non c'è problema, basta. In genere è in fondo alla borsa, proprio in fondo, in fondo. In genere non si trova. E non lo si trova, no? E poi non si sa se è il proprio. Comunque non importa, fa parte della normalità della vita. Poi vuol dire che questa era per sottolineare questa parte della profezia, vuol dire che è particolarmente importante. Va bene, poi dopo, appunto, senz'altro si nota come lo Spirito Santo aiuta Pietro a rispondere agli accusatori, ai capi del popolo, no? Con molta forza, perché loro, gli stessi che sono scappati dalla croce con paura, si sono chiusi nel cenacolo, e in realtà adesso con lo Spirito Santo hanno una grande forza. Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, siamo sempre lì, cioè, come succedeva con Gesù, se loro guariscono un paralitico, un malato, insomma, questi santi personaggi del Sinedrio sospettano che siano collegati col capo dei demoni, no? E invece lui dice: è per mezzo. E cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risalato. Quindi ha una grandissima forza. Questo Gesù, che è la pietra, è stata scartata da voi, costruttore, diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Vedete che forza c'ha Pietro, quello che ha rinnegato Gesù davanti alla serva di quella casa, no? Che diceva: ma anche tu sei Galileo, oh, non so cosa dici. Lo stesso Pietro, è lo stesso Pietro, ha lo Spirito Santo, quindi vieni Santo Spirito, noi possiamo dire: dacci questa fortezza di cui a volte ci sentiamo bisognosi, anzi sicuramente sempre, e a volte ci sentiamo fragili senza questa forza di cui c'è bisogno, no? In nessun altro c'è salvezza, non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che tutti noi siamo salvati. Così come anche in un'altra, cioè poi continuano a predicare, li richiamano, dice: non vi abbiamo detto di non predicare nel nome di quest'uomo? Bisogna obbedire a Dio invece che agli uomini, dice Pietro a questi qua, no? Ai capi del Sinedrio. E ribadisce la verità su Gesù Cristo, e di questi fatti siamo testimoni noi e lo Spirito Santo. Ma forse l'ultima cosa che ci possiamo dire, e ce ne sono anche altre, no? Come voi sapete, è quanto lo Spirito Santo è capace di, dicevamo prima, di cambiare le mentalità, no? Di rinnovare il modo di pensare. E lì se lo si vede molto chiaramente, tra le altre cose, nella questione dei cibi puri, impuri, no? Che possono essere mangiati o meno da un giudeo osservante. Voi pensate che il buon Pietro, sempre lui, aveva ascoltato da Gesù delle cose molto importanti su questo argomento, quando il Vangelo di Marco dice: venite tutti qua, ascoltate bene, dice Gesù, non c'è nulla che viene dal di fuori che può rendere cattivo l'uomo, il male viene dal cuore. Quindi dichiarava puri tutti gli alimenti, no? Dice San Marco. Noi sappiamo che San Marco è colui che mette per iscritto la predicazione di Pietro a Roma, no? Per i Romani. Quindi quelle cose Pietro le ha ascoltate da Gesù prima della passione e morte di Gesù. Quindi le ha ascoltate, però Gesù muore, risorge, sale al cielo. Li manda, loro ricevono lo Spirito Santo, ma nella Pentecoste, ma per Pietro quella cosa lì rimane chiusa, perché noi lo sappiamo che quello che abbiamo imparato fin da bambini ci hanno insegnato, no, una certa cosa, un modo di fare, un modo di rimane dentro. È difficile cambiare testa, cambiare, no? È difficile cambiare mentalità. E più si va avanti, più è difficile con l'età, no? Però lo Spirito Santo può aiutarci a cambiare. E che cosa succede? Inventa una bellissima cosa lo Spirito Santo, e intanto c'è a Cesarea Cornelio, un nostro antenato, centurione della corte d'Etta Italica, un italiano doc, no? Non sappiamo di che regione, ma comunque Cornelio, italiano, vabbè, era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, eh? Quindi l'affetto per la famiglia è italiano, viene da lontano. Speriamo che continui e che si rinnovi laddove è venuto meno. No? Faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide in visione un angelo di Dio che gli veniva incontro e lo chiamava Cornelio, e dice: che c'è, Signore? Preso da timore. Le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio e gli si è ricordato di te. Adesso manda degli uomini a Giaffa in riva al mare, e fa venire un certo Simone, detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. E lì adesso a Giaffa c'è una chiesa, quel luogo dove Pietro abitava. E allora Cornelio chiama 2 servitori e li manda a Giaffa a cercare sto Pietro. Simone, detto Pietro, a casa di Simone, conciatore di pelli. Il giorno dopo, intanto ci mettono tempo qui là in cammino, mentre quelli erano in cammino, verso mezzogiorno Pietro sale sulla terrazza a pregare. Gli venne fame, meno male, no? Vedete che anche la fame ha poi una utilità molto, cioè siamo sempre intorno al cibo, no? In questa meditazione Spirito Santo e cibo, potremmo intitolarla così, no? Voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, quindi evidentemente ha detto: tengo fame, non so, avrà detto, no? E gli stava preparando qualcosa. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi, vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva, simile a una grande tovaglia calata a terra per i 4 capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra, uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: coraggio, Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose: non sia mai, Signore, io non ho mangiato nulla di profano o di impuro. E la voce di nuovo lui, ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per 3 volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu sollevato nel cielo 3 volte. Cioè, ha proprio la testa dura Pietro, possiamo dire, abbi pazienza Pietro, non ci volere male per questa, ma penso che tu sia consapevole. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, ecco gli uomini invitati da Cornelio arrivano. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentano, chiamano, chiesero se abita lì Pietro. Simone ha detto Pietro. Pietro stava ancora ripensando alla visione e lo Spirito gli disse. Vedete che lo Spirito Santo, cioè, agisce con molta chiarezza, no? Ecco, ci sono 3 uomini che ti cercano, alzati, scendi, va con loro senza esitare perché sono io che te li ho mandati. Allora Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: Eccomi, sono io quello che cercate, qual è il motivo per cui siete venuti? E loro raccontano di Cornelio e della visione che ha avuta, no, dall'angelo. E allora Pietro li fece entrare e li ospitò. Cioè, già il fatto per un ebreo portare in casa un pagano era già una cosa che non si poteva fare, no? Tanto più lui andai a casa sua, che invece il giorno dopo parte con loro e arriva a Cesarea. Il Cornelio li aspettava con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Grande tavolata. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro, si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Pietro dice: Alzati, anch'io sono un uomo. Poi, continuando a parlare con lui, e Pietro gli dice: Voi sapete che a un giudeo non è lecito avere contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Pietro ha capito, ha capito. Ma vedete che quella visione, cioè quelle cose che Gesù aveva già spiegato, non erano bastate. Ha avuto bisogno non solo della Pentecoste, di un'ulteriore azione dello Spirito Santo. E anche di questo gioco che ha fatto con Cornelio, cioè ha voluto forzarlo ad andare, poi finalmente andrà anche a Roma, no? Partendo proprio da lì, da Giaffa, perché aveva bisogno lo Spirito Santo di che Pietro andasse a Roma, che questi cristiani provenienti dal giudaismo andassero a parlare con i pagani e non avessero paura. Ecco, di entrare in contatto con loro perché il Signore voleva entrare nella loro vita attraverso gli apostoli. Cornelio racconta la sua visione e Pietro dice, prese la parola e disse: In verità sto rendendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, siamo tutti uguali davanti a Lui, ma guardate che questa è una svolta epocale nella sua testa. Nella testa di un ebreo, no? Ma accoglie, perché sennò loro erano il popolo eletto, cioè Dio si curava di loro, no? Ma accoglie chi lo teme e pratica la giustizia a qualunque nazione appartenga. E di fatto, e poi gli fa tutto il discorso su Gesù, quindi gli dà la catechesi iniziale, l'essenziale annuncio del Vangelo su Gesù Cristo, no? Morto e risorto a causa dei nostri peccati, e che ci dà la grazia per essere figli, e così, no? Allora, Pietro stava ancora dicendo queste cose quando lo Spirito Santo discese sopra tutti coloro che ascoltavano la parola. Per cui capite, lo Spirito Santo arriva attraverso la parola di Pietro che parla di Gesù, che spiega la sua croce, la sua risurrezione. E lo vedono, lo Spirito Santo, in quel modo lo vedono attraverso, non so, non spiega come lo vedono, non dice, lo videro, non so, queste persone che diventavano contente, che trasfigurate, che capivano, non lo dice, non lo sappiamo. Però per loro è sicuro che è arrivato lo Spirito Santo. I fedeli circoncisi che erano venuti con Pietro si stupirono che anche sui pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo. Li sentivano infatti, ecco, parlare in altre lingue e glorificare Dio. Scusate, adesso arriva il punto, no? Per cui vedono a un certo punto queste manifestazioni straordinarie che sono capitate a loro e capitano anche ai pagani che non sono ancora battezzati, che non sono ancora, no? non hanno ancora ricevuto. Allora Pietro disse: chi può impedire che siano battezzati nell'acqua, questi che hanno ricevuto come noi lo Spirito Santo, e ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo, quindi lo pregarono di fermarsi alcuni giorni. E noi adesso mi sono dilungato un po' perché insomma è tutto molto interessante, però sono tante cose da leggere, quindi mi fermo. Vieni Spirito Santo, riempi i nostri cuori, cioè noi ci riempiamo di fede, di speranza e di amore, sapendo che tu sei l'amore di Dio riversato nei nostri cuori e che tu vuoi arrivare a tutti attraverso di noi, vuoi che sia Pietro che va, che dice le sue parole. E allora, ecco, se agisci tu, Spirito Santo, allora può essere anche, noi possiamo avere la forza per esserti testimoni e tu puoi anche fare in modo che, cioè tu vuoi entrare nelle persone che noi conosciamo, con cui noi lavoriamo, con cui a qualunque nazione appartengano, ma forse voi più che questo, che è sicuramente così, però potete, da qualunque posizione vengano nella vita, da qualunque mentalità arrivino, da qualunque tipo di esperienza e di, insomma, e di religiosità provengano. Quindi noi non dobbiamo mettere ostacoli allo Spirito Santo che vuole arrivare a tutti attraverso la nostra testimonianza e la nostra fede, che Maria, ecco, che ha aiutato i primi a ricevere lo Spirito Santo stando con loro, pregando con loro nel Cenacolo, aiuti anche noi ad essere amici, fedeli e docili allo Spirito Santo Dio.